Io sono felicissima di dare inizio a questa presentazione, a questo dialogo, al quale abbiamo lavorato tantissimo. Cristina doveva essere qui già a settembre, poi per una serie di imprevisti l'incontro è saltato e invece stasera è finalmente arrivata. Quindi la ringrazio tantissimo. Proprio perché aspettavamo questo incontro da molto tempo e ci abbiamo lavorato in tante, vado a leggere una sorta di introduzione lettera per non dimenticare nessuna. Allora, Cristina Rivera Garza è una delle scrittrici messicane più celebri e stimate della sua generazione. È l'unica ad essersi aggiudicata due volte il premio Sor Juana Inés de la Cruz, oltre a numerosi riconoscimenti internazionali. Stasera non diamo il benvenuto solo a lei, ma anche a Giulia Caminito, che ha accettato il nostro invito a dialogare con lei, e a Giulia Zavagna, che non solo tradurrà tutto l'incontro, ma che ha anche tradotto il testo. Diamo il benvenuto. Anzi, la benvenuta alla casa editrice Sur che ci ha fatto due enormi regali, quello di aver pubblicato questo libro in italiano e ovviamente quello di aver portato Liliana e Cristina qui da noi. L'evento di stasera nasce in collaborazione con Tuba come anteprima di Inquiete, il festival delle scrittrici che probabilmente conoscete e che come sapete ogni anno si svolge qui nel quartiere tra ottobre e novembre. Ma non solo, questo incontro nasce anche in collaborazione con la campagna Unite, immaginata da Giulia Caminito e Annalisa Camilli, che ha coinvolto in questi mesi moltissime scrittrici che hanno parlato di violenza maschile contro le donne nei teatri, nei festival e sui quotidiani. L'incontro però nasce in collaborazione anche con il circolo Arcis Farvasser e con il gruppo di lettura Strategie Prenestine, che ogni giorno insieme a noi provano a costruire un quartiere diverso, più accogliente, più umano e più femminista. Ma veniamo al libro. Liliana Rivera Garza è stata uccisa a Città del Messico 30 anni fa, quando la parola femminicidio ancora non era entrata nel lessico comune. Nel libro, Cristina, che è qui con noi, sua sorella, cerca di ricostruire l'ultima estate e gli ultimi mesi della sua vita attraverso il recupero di una sorta di archivio personale costituito dal diario, dalle lettere e da vari appunti sparsi. In questo modo il ricordo di Liliana diventa tanto corale quanto vitale, dal momento che chi legge conosce la protagonista attraverso molteplici punti di vista e relazioni. Tutte le relazioni con le amiche e con i colleghi di università che l'hanno amata, ammirata, senza rendersi conto dei segnali e senza riconoscere la spirale di violenza che iniziava a stringere Liliana. E questo è proprio uno dei nodi che ci ha colpito maggiormente del libro, la capacità di raccontare quanto a volte, anche tra persone molto intime, sia possibile che le relazioni tossiche non vengano individuate né denunciate. L'estate del titolo è quella in cui Liliana aveva l'impressione di essere sul punto di liberarsi da una relazione tossica, di essere vicina alla rinascita. Era piena di vita, di desideri, di voglia di esplorare il mondo. E proprio questa è l'immagine e il ritratto di Liliana che Cristina riesce a consegnarci, senza retorica e senza rivittimizzare sua sorella. Riesce, per rubare le parole a una poeta e scrittrice italiana che amiamo molto, Maria Grazia Calandrone, a far fiorire la pietra, a trasformare la morte di sua sorella in un'esperienza di vitalità potente per tutte le altre. E da questo libro, infatti, sono fiorite e scaturite molte cose. un'esplosione di voci di donne che hanno chiesto che il caso venisse riaperto e che fosse fatta giustizia per Liliana e per tutte le altre. È un testo che è un memoir poetico e toccante, ma che diventa un saggio politico sulla violenza maschile contro le donne, dal momento che una tragedia personale e privata assume il valore di un manifesto femminista. Il reato di femminicidio è stato istituito in Messico nel 2012, grazie soprattutto alle lotte delle femministe. Fino a quel momento il riferimento era al cosiddetto delitto passionale. Ed è questo del delitto passionale e più in generale dell'immaginario patriarcale, del raptus di gelosia che ci risuona. Come è rivestita, i lupi, il te lo sei andata a cercare. Ci fa infuriare, non ne possiamo più, siamo stanche, siamo arrabbiate e vogliamo ribadire una volta per tutte che l'unico responsabile di uno stupro è lo stupratore e gli uomini che non riescono a pronunciare questa semplice verità sono complici della cultura che ha portato a quello stupro. Stasera abbiamo deciso di regalarvi dei fischietti perché sono simbolo di tante battaglie e perché fanno rumore. Non possiamo più stare zitte di fronte alle dichiarazioni vergognose, alle narrazioni tossiche, agli spazi di potere e di cultura occupati unicamente dagli uomini. Utilizziamo questi fischietti anche per prenderci cura delle altre, per praticare la sorellanza e liberarci dalla paura, facendo rumore e inventando forme nuove di autodifesa e di protezione delle altre. Le strade sicure le fanno le donne che le vivono. E anche per questo vi proponiamo, dopo la presentazione, di partire insieme per una passeggiata rumorosa per le strade del quartiere. Vi proponiamo questa passeggiata perché è arrivato il momento per le donne di occupare la scena, di reclamare uno spazio nel discorso pubblico, di denunciare la violenza in ogni contesto, di gridare cessate il fuoco. Grazie a tutte, lascio la parola a Giulia Camillo. Grazie e benvenuti. Buonasera a tutte e a tutti. Grazie per essere qui così numerose e numerosi. Grazie a Tuba, grazie alla casa editrice Sur, grazie a Cristina Rivera Garza per essere qui dal Messico, per aver scritto questo meraviglioso libro, ma grazie anche a Giulia Zavagna che lo ha tradotto meravigliosamente. Questo viaggio è iniziato il 28 novembre, noi eravamo qui a Tuba insieme, io e Giulia, e abbiamo iniziato, dopo ovviamente l'ultimo dei tanti femminicidi accaduti, a sentire la necessità di fare qualcosa, di trovare delle giuste parole, e ci siamo veramente aggrappate al libro di Cristina, con tutte le nostre forze, e una quindicina di scrittrici, tra cui la sottoscritta e Annalisa Camilli, eravamo proprio qua da Tuba a leggere pezzi insieme, corali. Questa lettura corale del libro di Cristina si è svolta anche in altre città, come la città di Milano, ed è l'ultima lettura, è accaduta proprio a Book Pride. Sono stati dei momenti fortissimi, questo è un testo quasi manifesto, non è soltanto e ovviamente il racconto della vita e della morte di Liliana e anche della memoria che le è sopravvissuta, ma è un racconto in cui specchiarci completamente. Ecco, da quella serata che ci ha così toccate e toccati, mentre eravamo qui insieme, è nata poi la manifestazione di Unite, che in Italia comprende 160 scrittrici a oggi che hanno aderito in tutto il territorio italiano e che hanno occupato negli scorsi mesi i giornali, i blog, le riviste cartacee e online con articoli contro la violenza sulle donne. Questo perché il libro di Cristina ci insegna che ci sono parole giuste, adeguate, non retoriche, ma che colpiscono in maniera molto diretta per parlare della violenza sulle donne, e che non c'è bisogno soltanto della reazione ai casi di cronaca, ma di continuare questo discorso in modo che non si arrivi al caso di cronaca successivo. Questa iniziativa è un'iniziativa a cui noi ci stiamo dedicando moltissimo, e lo facciamo anche nel pensiero di quella serata comune e di quel momento di unione che ci ha viste una accanto all'altra nella lettura di questo meraviglioso libro. La prima volta che l'ho letto io sono rimasta non solo colpita, ma emozionata, ma anche disturbata, perché è il libro che ci racconta la fine di una ragazza giovanissima che ha lasciato la provincia del Messico per andare a Città del Messico a studiare. Una storia che purtroppo si ripete, una storia che anche oggi spesso si ripete, giovani donne che lasciano legami della loro giovinezza per essere libere, per andare nella propria vita, per studiare, per crescere, per sperimentare, donne sull'orlo delle proprie conquiste che vengono invece punite per questo. Ecco, questo è anche il racconto di una terribile punizione rispetto al grande desiderio di vita, di sessualità, di incontro, di conoscenza che aveva Liliana. Io volevo iniziare leggendovi un piccolo pezzo che secondo me è tra i più importanti, più forti di questo libro, che è un libro non soltanto narrativo ma anche speculativo. È un libro che ragiona su cos'è la violenza contro le donne e come si muove anche nelle sue fasi precedenti, non solo nell'atto finale. Perché Liliana continuava a tornare a una relazione che almeno da fuori le offriva solo instabilità e dolore. In No Visible Bruises, Snyder propone due domande alternative. La prima: perché l'aggressore continua a tornare? La seconda: qual è la reazione più logica quando si viene attaccati da un orso? La risposta alla prima domanda apre il campo alle molte cose che ancora dobbiamo scoprire sulle mascolinità atrofizzate in un contesto patriarcale. La seconda, aggiungeva Snyder, ci porta direttamente a un momento decisivo, a una questione di vita o di morte. Se un orso ti attacca, lo attacchi a tua volta, sapendo che può facilmente ferirti, oppure ti fingi morto e ti arrendi. Snyder mi ha fatto capire un dettaglio fondamentale con questa descrizione. Le vittime restano perché sanno che qualunque movimento improvviso potrebbe provocare l'orso. Restano perché con il tempo sono riuscite a sviluppare alcune strategie capaci di calmare, a volte con successo, il partner furioso. Pregano, supplicano, promettono, adulano, dimostrano pubblicamente il proprio affetto per l'aggressore e gli si dimostrano alleate, perfino contro le persone come la polizia o gli avvocati o gli amici o la famiglia, che potrebbero salvar loro la vita. Le donne maltrattate restano perché vedono che l'orso si avvicina e vogliono vivere. Allora, la prima domanda che voglio farti è: qual è stata la reazione in Messico, ne ha iniziato a parlare Barbara, rispetto all'uscita di questo libro, ma anche come ti senti rispetto a come questo libro è stato accolto, letto negli altri paesi, anche compresa l'Italia? Ecco, che cosa oggi senti proprio emotivamente, ma anche come scrittrice, che è successo intorno a questo libro e alla storia di tua e di tua sorella? Buonasera. Io sono molto contenta di avere l'opportunità di parlare con voi. Ese fue todo en italiano. Antes de contestar a tu pregunta, quiero decirles que estoy muy sorprendida y conmovida de verles, de verlos, de verlas a todos ustedes aquí reunidos. Yes. Muchas gracias por el abrazo que le han dado a Liliana. Muchas gracias a estas dos Julias por todo el trabajo que han organizado alrededor del libro, por las lecturas colectivas, que son siempre lecturas políticas, lecturas de la amistad, lecturas del contacto. Gracias a Julia, que me va a permitir comunicarme con ustedes, y a la editorial por publicar el libro, y a la librería por invitarnos y ser nuestro anfitrión. Y nada de esto podría pasar sin tenerles a todos ustedes aquí presentes. Entonces, sobre todo, gracias a ustedes por salir en esta noche romana después de un día maravilloso, luminoso, por estar aquí con nosotras. Muchas gracias. Okay. Buonasera a tutti. Prima di rispondere alla tua domanda, Giulia, ci tenevo a dirvi che sono molto sorpresa, molto commossa di vedere tutte e tutti voi qui riuniti questa sera. Grazie per l'abbraccio con cui avete accolto Liliana. Grazie a queste due Giulie che sono qui e che hanno messo tanto lavoro e organizzazione dietro a questo libro. Le letture collettive sono sempre letture politiche, letture dell'amicizia, letture del contatto. Grazie alla casa editrice, grazie alla libreria, a tutti quelli che hanno reso possibile questa serata, che ovviamente non esisterebbe senza di voi. Quindi grazie per essere usciti questa sera, per essere qui insieme. Giulia. Mi puoi dire di parlare? Mi ha una pregunta enorme. Perfetto. Ah. Okay. Yeah. Por desgracia lo sabemos Grazie. Bien, el feminicidio no es una cosa del pasado, sino también del presente. Lo que ha cambiado de 1990 ahora es que ustedes, sus madres, sus tías, sus abuelas, todas aquellas que tomaron la calle, la plaza pública y la palabra pública, construyeron un lenguaje más preciso, compasivo, para poder contar estas historias de violencia de otra forma, de otra manera. Disgraziatamente sappiamo che il femminicidio non è qualcosa del passato, è qualcosa che ci riguarda ancora nel presente. E quello che è cambiato dagli anni 90 a oggi è il fatto che voi, e le nostre madri, le nostre zie, le nostre nonne, tutte coloro che hanno preso la strada pubblica, occupato la strada pubblica, preso la parola pubblica, hanno a poco costruito un linguaggio più preciso, più compassionevole, che ci permette di raccontare queste cose in un modo diverso. Io non avrei potuto scrivere questo libro sin esas palabras y sin ese vocabulario. Tampoco habría podido escribir ese libro sin los documentos, los papeles, las cartitas, las notitas donde quedaron inscritas las palabras de Liliana. Non avrei potuto scrivere questo libro senza queste parole e senza questo linguaggio. Come non avrei potuto scrivere questo libro senza tutti i documenti, le lettere, i bigliettini in cui è rimasta per sempre la scrittura e la voce di Liliana. Quando stavo scrivendo il libro, entre otras muchas noticias sobre violencia de género, también salió la noticia en México sobre el caso de Leslie, una mujer a la quien había asesinado su pareja y que habían hecho tratado, que habían tratado de hacer pasar como un suicidio. Justo mientras escribía el libro, se dictó una orden de aprehensión contra su feminicida. Mentre stavo scrivendo questo libro, tra le molte notizie di violenza di genere, in Messico è arrivata la notizia del caso di Lesbi, una ragazza che era stata uccisa dal suo partner e il cui caso era stato fatto passare per un suicidio. Proprio mentre io stavo scrivendo il libro è stato emesso l'ordine d'arresto contro il suo femminicida. E talvez por eso, por tantas conexiones, porque sigue siendo una tragedia contemporánea, una de las grandes tragedias de nuestro tiempo, un ejemplo de esta guerra contra las mujeres de la que nos ha hablado tanto alguien como Rita Segato, Liliana ha encontrado oídos también para su historia en México y también aquí, especialmente con mucho cariño, en Italia. Forse proprio per questo, perché il femminicidio è ancora oggi una delle grandi tragedie del nostro tempo, è ancora oggi esempio di quella guerra contro le donne di cui ha tanto parlato Rita Segato. Ecco, forse proprio per questo la storia di Liliana ha trovato orecchie che la potessero ascoltare, ovviamente in Messico e anche soprattutto qui in Italia. Estoy muy emocionada, acabo de perderme. Yo lo que he visto estos días maravillosos en Italia, estuvimos en la lectura colectiva en Milano hace un par de, unos dos, tres días. Lo que siento en el aire es que hay, como en México, una urgencia, una voluntad enorme por poner esta conversación en la vía pública, por recordarnos a todos que no podemos tolerar más el sufrimiento de las mujeres, por recordarnos a todos que estos no son crímenes excepcionales, sino estructurales, pero también para recordarnos a todos que los podemos contar de otras formas y luego entonces podemos vivir de otras formas y nos podemos proteger y nos podemos alumbrar el camino, y eso yo creo que le habría gustado mucho a Liliana. Quello che ho visto in questi giorni meravigliosi in Italia, per esempio qualche giorno fa a Milano durante la lettura collettiva che abbiamo fatto, quello che ho notato nell'aria è che c'è un'urgenza, una volontà enorme di portare questa conversazione nello spazio pubblico. Non c'è più tolleranza per la sofferenza delle donne e per rendere chiaro che questi crimini non sono un'eccezione, ma sono qualcosa di strutturale. Anche però è importante il fatto che noi possiamo oggi raccontarli in un altro modo e di conseguenza viverli in un altro modo. Possiamo proteggerci, possiamo illuminare la strada, e credo che questo a Liliana sarebbe piaciuto moltissimo. Grazie, grazie Cristina. E a proposito delle parole che sono arrivate nel corso di questi anni, in questi giorni c'è un caso di cronaca italiano che ha processo, il caso di Giulia Tramontano, ragazza che purtroppo alla cronaca, voi tutti conoscerete la sua storia agghiacciante. A proposito di queste parole, ecco, sono state mostrate in aula le immagini del corpo di Giulia martoriato e anche le prove invece del baby shower dedicato alla sua gravidanza, e i giornali ci hanno tenuto a riportare che l'assassino piangeva molto. Ecco, questa cosa non è più accettabile. Non è più accettabile raccontare l'emotività di un assassino che per 4-5 mesi ha avvelenato con veleno per topi la sua compagna incinta. Questa cosa non ci interessa. A proposito di questo, è proprio Liliana che ci insegna attraverso le sue parole, che Cristina riporta nel libro, quanto lo scrivere dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti e usare le giuste parole cambia anche la prospettiva rispetto alla vita. C'è un pezzo molto piccolo del diario di Liliana che ho particolarmente a cuore. Dice: cerco, voglio provare cose nuove, forse più dolore e più solitudine, ma credo che ne valga la pena. So che c'è qualcosa oltre queste quattro pareti e questo cielo fastidiosamente azzurro. Come si può amare tanto senza voler davvero bene? Ecco, questa domanda è una domanda secondo me importantissima, E a partire da questa domanda di Liliana, del suo bene, del suo voler bene, del vostro amarvi, del vostro voler bene, ecco, voglio chiederti chi era Liliana. Ecco, non solo ovviamente è stata la vittima di questa storia, è stata tanto altro, è stata tutt'altro. E dal libro emerge fortissimo tramite le sue parole quanto lei amasse la scrittura, quanto amasse la lettura, quanto amasse la poesia. Ecco, volevo chiederti questo, chi era Liliana e quanto amava le parole? Lo dico io. Yo fui la hermana mayor de Liliana, con 5 años de diferencias, y como en todas las familias, sabía cosas de Liliana y no sabía muchas más. El psicoanálisis nos ha enseñado eso, entre otras cosas, ¿no es cierto? Cuando empecé, por muchos años, no pude hacer las preguntas, ya lo hemos explicado por qué. Conforme pasó el tiempo, tal vez no podía hacer las preguntas porque tenía las respuestas. Cuando empezó el proceso de investigación, reconocer primero que hay algo por descubrir. Cuando empecé a hablar con los amigos de Liliana, cuando empecé a ir a recorrer los lugares por donde había vivido, a hablar con mis propios parientes y familiares para traer a Liliana a nuestra conversación cotidiana, lo que ellos hicieron fue regalarme muchas Lilianas. Lo que ellos hicieron fue también ofrecerme muchas hermanas. Yo sabía que Liliana era una chica muy inteligente, que le interesaban las artes visuales, que era muy buena nadadora, que tenía una muy dura patada, una fuerte patada en la natación, que sacaba buenas calificaciones, que era muy cuidadosa con sus cosas, muy puntual. Una serie de cosas que yo no era y que a ella le ponían de nervios siempre. Pero lo que fui descubriendo con todo este reconstruir su vida y su comunidad, fue una Liliana todavía más maravillosa. Una Liliana que leía mucho, y como lo digo en el libro, que escribía mucho más de lo que yo escribía entonces. En esa época yo estudiaba sociología, y mi tarea, por supuesto, era cambiar el mundo. Mientras Liliana escribía cartas, las corregía, como lo hace una escritora, no solo para expresarse, sino también para jugar con las formas, para intentar decir las cosas de maneras distintas. Descubrí el tremendo sentido del humor de Liliana, a quien un amigo describió como muy cábula, una palabra muy especial de la Ciudad de México, es una palabra muy chilanga, que en el norte del país no decimos. Irónica, rápida de mente, no rápida de mente, sino de mente rápida. Amiga de sus amigos, con una gran capacidad de crear comunidad. Y también descubrí a la Liliana que por más que intentaba ponerle un nombre a esa violencia que la acercaba, no pudo. Hasta los últimos días, Liliana pensó que podía ella sola contra el patriarcado. Sabemos muy bien que solas no podemos, que nos necesitamos a todas. Y decir no estás sola es sumamente importante hoy y siempre. Io, io ero la sorella maggiore di Liliana, come succede in tutte le famiglie c'erano molte cose che sapevo di lei e molte altre che invece non conoscevo e per molti anni non ho potuto rispondere a quelle domande per le ragioni che sappiamo, per molti altri proprio perché avevo le risposte. E la ricerca, l'investigazione che ho iniziato mi ha permesso che esisteva ancora mi ha permesso di capire che esisteva ancora molto da scoprire, parlare con i suoi amici, percorrere i luoghi dove lei aveva vissuto, parlare con i parenti e i familiari, portare Liliana nelle nostre conversazioni quotidiane mi ha regalato molte Liliane diverse, mi ha regalato molte sorelle. Ho scoperto che era una ragazza intelligentissima, interessata alle arti, una gran nuotatrice, aveva una gambata molto forte e prendeva buoni voti, era precisa, disciplinata, tutte cose che io non ero e questione che a lei faceva innervosire moltissimo. Ho scoperto una Liliana ancora più meravigliosa. Leggeva moltissimo e, come dico anche nel libro, scriveva anche molto più di me in quel periodo. Io studiavo sociologia e il mio compito ovviamente era cambiare il mondo all'epoca. E lei scriveva con già un comportamento da scrittrice, ricopiava, faceva modifiche, correggeva i suoi scritti, giocava con la lingua e cercava un modo diverso di dire le cose. Aveva un grande senso dell'umorismo, uno dei suoi amici l'ha definita cabula, che è una parola specifica di Città del Messico, era ironica, era molto sveglia, era una grande amica e amava creare una comunità intorno a sé. Ho scoperto anche che Liliana ha provato fino all'ultimo a dare un nome alla violenza che la circondava e senza riuscirci. Ha tentato fino all'ultimo da sola di combattere il patriarcato e sappiamo che da sole è molto difficile. Non possiamo farlo e dirci che non siamo sole è importantissimo oggi e sempre. Vorrei tornare alle parole di Liliana che si trovano nel libro. I ricordi, sprofondo in immagini, mostri senza volto, mi inghiottono, è finita. Quante volte te l'ho detto, Angèle, nulla è eterno. E tutta questa rabbia, al di là della logica, al di là della ragione. Sarebbe crudele se dicessi che è meglio così, non lo concepisco. È forse questo a farmi così male. Sarà che è arrivata la terribile fine dell'infanzia. Sarà che l'adolescenza è ormai trascorsa. Lo è davvero? Perché, Angèle? Angèle pazzo, Angèle buono, Angèle angelo. Come non ripetere il tuo nome? Non c'è spazio per il rancore, non ce n'è per l'odio. Non saprai mai più nulla di me. Sono un punto impreciso. Contiamo i soli che non sono mai sorti, le nuvole basse, il sudore asfissiante, contiamo gli amori esclusi. Ecco, in questo libro, come abbiamo già detto, si accavallano voci diverse, la voce di Cristina, la voce di Liliana, che piano piano attraverso le lettere che lei ha recuperato e ha riletto, ci racconta la sua versione dei fatti, le sue impressioni, e non emerge mai il timore per la propria vita. Non emerge mai da parte sua la sensazione di essere in pericolo di vita. Questo è molto importante, perché poi a posteriori tutte e tutti diciamo ma come la famiglia non si è accorta, ma come lei non si è accorta. Ecco, qui abbiamo la testimonianza diretta di una ragazza giovane che viveva la sua vita all'interno di una relazione violenta e che però non aveva addirittura pensato di poter perdere la vita. Ecco, la scrittura che fa Cristina è una scrittura non solo di accompagnamento, ma di ragionamento, di messa insieme di questo collage in cui emergono le testimonianze molto commoventi, perché Liliana era un'amica straordinaria, aveva delle amiche vicinissime con cui condivideva tantissimo, aveva 20 anni, aveva iniziato l'università, architettura, aveva tanti ragazzi interessati a lei, era affascinante, proprio perché aveva questo spirito, questo guizzo, questa voglia di esistere. Ecco, io volevo chiederti come è nata questa forma, perché la forma è anche il contenuto, cioè la decisione di non scrivere un romanzo o non scrivere semplicemente un saggio o una tua testimonianza, ma di mettere insieme questi materiali. Ecco, come hai raggiunto questa forma di scrittura e se ti ritrovi oggi? Perché è molto particolare anche per le pubblicazioni italiane. Ecco, è quasi un reportage familiare, narrativo, letterario intorno a questo evento del femminicidio. Grazie per questa domanda. Non so in che incredibile vederlo qui. Io quando recién publiqué il libro, mi preguntaban quando lo publicamos la traducción al inglés, me preguntaba qué es lo que quieres del libro, y yo dije una frase en inglés muy común que es I want Liliana to go places, quiero que Liliana vaya a muchos sitios, que visite lugares, y hoy aquí con todos ustedes me parece increíble porque Liliana está aquí, en Roma, esta noche, que la escritura pueda hacer eso todavía me maravilla, muchas gracias por este regalo. E ahorita contesto tu pregunta. Grazie per questa domanda. Prima di rispondere, lasciatemi dire quanto è incredibile vedervi qui oggi. Quando è stata pubblicata la traduzione in inglese di questo libro, mi hanno chiesto che cosa desideravo da questa pubblicazione. Io ho risposto con una frase molto comune in inglese, ho detto I want Liliana to go places. Volevo che visitasse tanti posti, che fosse presente in tanti posti. Ed ecco, sapere che siamo qui a Roma stasera è come averla qui con noi. Lei è qui. Grazie. Nel 1990, quando Liliana fu vittima del femminicidio, había muy pocas maneras de contar esta historia. Limitaciones que todavía sobreviven hasta el día de hoy. Era muy difícil hablar de Liliana, porque hablar de ella implicaba, dentro de esta narrativa del crimen pasional, implicaba dañarla y también implicaba dañarnos a nosotros. Es el típico caso, el famoso Catch 22, de que te va mal si lo cuentas y te va mal si no lo cuentas. Y en ese impasse, en ese silencio forzado, permanecimos muchos años, como familia y como sociedad. Nel 1990, quando Liliana è stata vittima di femminicidio, c'erano pochissimi modi di raccontare questa storia. Parlare di lei all'interno del discorso dominante, che è quello del delitto passionale, avrebbe significato fare del male a lei e fare del male a noi. È un po' come il cosiddetto Catch 22, fai male se ne parli e fai male anche se non ne parli. E in questo silenzio forzato siamo rimasti per moltissimi anni come famiglia e come società. Io ho sempre creduto che la scrittura tiene la potenza di producir pensamiento critico e di producir también acción critica. Sempre mi ha preoccupato in mis libros interrogar las formas que recibimos, las narrativas que recibimos, las explicaciones que recibimos. Me parece que la escritura está ahí para despertar otras fuerzas, para interrogar esas formas. Ho sempre creduto che la scrittura avesse una potenza di generare un pensiero critico e di generare un'azione critica. Ho sempre lavorato interrogando le forme date e i discorsi dati, credendo appunto che la potenza della scrittura sia nel poterli cambiare. Quando incorporamos las voces che han sido silenciadas o invisibilizadas, como las de las mujeres y más. Cuando lo incorporamos a la escritura, no solo se trata de poner un detalle más o un personaje más. Sus voces transforman la forma. Sus voces alteran lo que estamos acostumbrados a entender de la realidad. Sus voces y sus experiencias requieren de otra manera de escribir. Yo tuve que aprender mucho y desaprender mucho para poder escribir este libro como está escrito. Quando incorporiamo le voci che sono state silenziate, che sono state invisibilizzate, come quelle delle donne, quando le inseriamo, le incorporiamo nella scrittura, non è come inserire un dettaglio in più. Queste voci trasformano le forme, e le forme anche della scrittura alterano il nostro modo di percepire la realtà. E ci permettono di raccontarla in un modo diverso. Ho dovuto imparare molte cose e disimparare molte cose per scrivere questo libro. Giocheria la vita di Liliana, non nada más su muerte. E per raccontare esa vita necessitava de lo che se hace en las vidas, che è il contatto con otros, las otras energías che nos atraviesan e nos dan forma. Yo quería que Liliana fuera la protagonista de esta historia, no mi dolor, no mi relación con ella. Quería su vida entera, contradictoria, porque por más que diga que es luminosa y maravillosa, Liliana no era una santa, esto no es una exégesis de su vida. Liliana era una joven de 20 años tratando de encontrar su camino en el mundo, ¿no? Desaprender las maneras de escribir cuesta tiempo. Yo creo que yo he querido, yo había querido escribir este libro antes. Tengo dos manuscritos escondidos por ahí que nunca nadie va a ver. Van a quedarse ahí para siempre. Eran libros escritos con el contorno de la ficción. No, nunca funcionaron, porque había que incorporar la experiencia de Liliana en cuanto tal, había que incorporar esas otras historias que me llegaron con los amigos, había que crear un coro, un pastiche, una fragmentación, una resonancia que funcionara en el libro. Io volevo raccontare la vita di Liliana, non soltanto la sua morte. Per raccontarla avevo bisogno di quello di cui sono fatte le vite, cioè il contatto con gli altri, con le altre persone. E volevo che Liliana fosse la protagonista di questo libro, non che il protagonista fosse il mio dolore. E volevo raccontare la sua vita in quanto tale, cioè una vita complessa, anche contraddittoria, no? Non c'era in nessun momento l'intenzione di fare un'esegesi di questa ragazza. Liliana non era una santa, era una ragazza di 20 anni, come tutte. E ecco, disimparare le tecniche della scrittura richiede moltissimo tempo. Io era da tanto che tentavo di scrivere questo libro. Di fatto esistono due manoscritti nascosti che nessuno vedrà mai, che non vedranno mai la luce. Ed erano due manoscritti che io ho messo insieme, diciamo, nell'ambito della finzione pura. Eppure non funzionavano, non sono riuscita a portarli avanti, perché era necessario incorporare l'esperienza di Liliana in quanto tale, tutte le diverse storie che mi sono arrivate dai suoi amici, creare una sorta di coro, di pastiche, di risonanza. Pero yo estaba invocando a Liliana también y no la podía dejar sola en el libro. Tenía que incorporarme yo también y ponerme en riesgo yo también. Pero mi presencia tenía que ser discreta. Yo estoy, claro que tomé todas las decisiones del libro, pero en cada decisión estética en el libro traté de seguir muy de cerca lo que estaba aprendiendo de Liliana. Muchas veces la sentía aquí, atrás de mi hombro, mientras yo estaba escribiendo, diciéndome, quita eso, es demasiado cursi, yo no diría algo así, por ejemplo. E allo stesso tempo però stavo invocando Liliana e non potevo lasciarla sola. Dovevo mettermi in gioco anche io, mettermi a rischio anche io. Volevo però che la mia presenza fosse discreta e per farlo ho cercato di seguire da vicino tutto quello che stavo imparando e scoprendo su di lei. Per tutto il tempo della scrittura ho sentito come se Liliana fosse qui, no? Accanto alla mia spalla, ogni tanto interveniva e mi diceva: togli questa roba, sei troppo sentimentale, io non direi mai una cosa del genere. Y a final de cuentas lo saben, muchas periodistas de hoy lo saben, aquellos que les preocupa tener una visión crítica sobre la violencia, es muy difícil escribir con y contra la violencia. Y necesitamos constantemente cuestionar nuestras formas e inventar otras. Creo que inventarlas de la mano de aquellos que queremos acompañar, oírlas con mucho cuidado y honrar también esa experiencia, no solo en cuanto al contenido de la historia, sino a lo que su experiencia viene a tambalear, a poner en cuestión, a tirar de fondo. E come sanno molti giornalisti di oggi, come sa chiunque vuole avere una visione critica rispetto alla violenza, è difficilissimo scrivere della violenza e contro la violenza. Bisogna in qualche modo inventare costantemente un modo diverso per mettere a fuoco la scrittura. Bisogna farlo tenendo per mano le persone che vogliamo accompagnare, sia rispetto al contenuto di queste storie, sia rispetto a tutto quello che dobbiamo mettere in discussione, far tremare, far crollare. Appunto, la discrezione che c'è in questo libro della tua scrittura, penso che chi lo ha letto l'ha notata perfettamente, perché fa emergere in maniera molto forte Liliana dalle proprie parole, ma anche dalle parole degli altri, e c'è comunque questa ansia crescente, perché noi sappiamo che cosa sta per succedere a Liliana, ma non sappiamo quando, non sappiamo come. C'è una fortissima scarica emotiva che attraversa questo testo, e volevo leggere un altro pezzetto proprio sul sentimento. Ciò che distingue la violenza domestica, in particolare l'omicidio della partner, da qualsiasi altro tipo di crimine è l'amore, assicura Rachel Louise Snyder in No Visible Bruises. Nessun altro atto di violenza estrema è alimentato da un'ideologia così diffusa e condivisa. Quale persona sana di mente dovrebbe dichiararsi contraria all'amore romantico? Le centinaia di migliaia di donne uccise dai loro partner potrebbero rispondere a questa domanda in modo inedito. Eppure perfino loro avrebbero bisogno di ciò di cui tutti abbiamo bisogno per poter rispondere a una domanda basilare: un linguaggio capace di identificare fattori di rischio e momenti di estremo pericolo. In un paese come il Messico, dove fino a poco tempo fa perfino la musica popolare inneggiava agli uomini che in preda a un attacco di gelosia o davanti alla minima provocazione uccidevano le donne, produrre quel linguaggio è stata una lotta eroica, le cui vittorie spettano, senza dubbio, ad attiviste decise a mettere in discussione l'endemica disuguaglianza di genere e il violento operato, anche nelle sue minime manifestazioni, del patriarcato che incombe su di noi. C'è voluto il lavoro di intere generazioni, per esempio, perché il catcalling, visto con malsana frequenza come un semplice riflesso naturale, se non come una lusinga, venisse denunciato come una quotidiana espressione di molestia nello spazio pubblico. Chiamare le cose con il proprio nome richiede spesso l'invenzione di nuovi nomi. Molestie sul luogo di lavoro, discriminazione, violenza sessuale, lo stupratore sei tu. Per parlare così, per scostare il velo che nasconde la violenza, che affligge e uccide centinaia di migliaia di donne dentro e fuori dalle loro case, è stato necessario lottare controcorrente e partecipare insieme ad altri alla creazione di un linguaggio preciso, attento alle mortifere differenze di genere. Ecco, questo passaggio che riassume molte delle cose che Cristina ha già detto, di cui stiamo discutendo, vorrei che lo guardassimo anche da un'altra prospettiva, che è proprio la prospettiva dell'emozione, del sentimento. L'emozione di cui si parla, cioè l'amore, discutibile appunto emozione che giustifica o sembra poter giustificare, no? Certi atti, ma in realtà secondo me questo è un libro sull'amore, l'amore tra te e Liliana, l'amore tra Liliana e le sue amiche, l'amore della famiglia per Liliana e della libertà che vi hanno donato come figlie, nonostante fossero molti anni fa, di andare nel mondo, di studiare, di scoprire, di capire, ecco, e l'amore dello stare insieme anche nelle manifestazioni pubbliche, nel trovare la parola comune, un amore che spesso viene anche a volte politicamente deriso, no? La parola femminismo anche in Italia, non so in Messico, in Italia purtroppo a volte fa un po' sorridere, quelle matte femministe, quelle disturbatrici, che ridere, no? Il patriarcato, parola che fa ridere, perché ormai sembra che è una parola sciocca che serve soltanto tra noi per dirci due cose. Ecco, noi dobbiamo guardare anche oltre questa nostra piazza e questo nostro incontro, purtroppo a un paese reale che queste cose non le riconosce e non le vuole ascoltare. Questo emerge fortissimo dai momenti pubblici di incontro e anche dalle pubblicazioni, dai discorsi che noi facciamo insieme. Ecco, io volevo chiederti qualcosa su questo amore. Questo amore, se è cambiato scrivendo questo libro, cosa hai capito del legame con Liliana, ma anche del legame di Liliana con le altre donne, della sua storia con le altre donne messicane e non solo. Qué bien hablar de amor cuando hablamos de este libro. Qué bello parlare di amore parlando di questo libro. Saben, Liliana y yo éramos hermanas como todas las hermanas. Teníamos discusiones, días buenos, días malos, días en que jurábamos que nos odiábamos para siempre, días en que nos extrañábamos mucho, días en que nos tendíamos las manos, días en que guardábamos silencio también. La más grande discusión que recuerdo haber tenido con ella y cuento en el libro es precisamente, fue precisamente alrededor de la idea del amor. Yo estaba en la universidad. Estaba tratando de entender también este mundo de grandes desigualdades y diferencias, y me había proclamado abierta y conscientemente en contra del amor. Tuve un novio en esa época con quien quedamos de acuerdo que íbamos a ser novios siempre y cuando no nos amáramos. Liliana e io eravamo sorelle come lo sono in tante, avevamo spesso molte discussioni, avevamo giorni buoni e giorni meno buoni, a volte ci dichiaravamo odio, no? Giuravamo che ci saremmo sempre detestate, altre volte ci stringevamo forte le mani, altre volte rimanevamo in silenzio. Ecco, la discussione più grande che ricordo di aver avuto con mia sorella e che menziono nel libro è proprio intorno al concetto di amore. Io all'epoca andavo all'università e cercavo a mia volta di capire il mondo che mi circondava, un mondo pieno di disuguaglianze, e mi ero dichiarata apertamente contro l'amore. Avevo un fidanzato all'epoca con il quale ci eravamo detti che saremmo stati insieme fino a quando avremmo potuto dire di non amarci. Non intendevo, Liliana sempre stuvo del lato dell'amore. Yo pensaba en esa época que Liliana era una conservadora, que su apoyo del amor era seña de una naivete. Leyéndola todos estos años después, he entendido que su idea del amor era mucho más compleja y que, aunque a veces estaba oscurecida por el lenguaje del amor romántico, siempre tuvo en cuenta ese otro modo de amar, del que por cierto habla también una gran poeta mexicana que se llama Rosario Castellanos. Otro modo de ser, otro modo de amar. Era una definición radical del amor. Era una definición que incorporaba la libertad y que incorporaba la autonomía. Hasta los últimos días de su vida, Liliana dijo que ella iba a amar sin importar la cosa, la persona, el lugar, que ella iba a amar de esa otra forma. A ella amar de esa otra forma le costó la vida. Pero yo creo que esa otra forma de amor en la que creía Liliana es también la que nos puede liberar y la que nos puede unir en la alegría y en el placer y en la solidaridad, porque de eso también se trataba la definición del amor de Liliana. Y eso, de manera sorprendente, de manera increíble para mí, creo que es lo que he recibido a partir de ella y en su conexión con ustedes, esta posibilidad de decir, vamos juntas, en la diferencia, no siempre de acuerdo, pero vamos juntas, es un amor, es un entusiasmo y es también una forma de crecer. Ya no estoy en contra del amor. Liliana invece è sempre stata dalla parte dell'amore e io pensavo che la sua fosse una posizione un po' conservatrice, un po' ingenua forse, e solo molti anni dopo ho capito che la sua idea dell'amore era molto più complessa di quella che io immaginavo. È stata oscurata a volte dal linguaggio dell'amore romantico, ma di fatto lei si batteva per un modo diverso di amare, un altro modo di amare, un altro modo di essere, come anche diceva una grandissima poeta messicana, Rosario Castellanos. Era una definizione di amore radicale, una definizione di amore che comprendeva la libertà, che comprendeva l'autonomia, e fino agli ultimi giorni della sua vita Liliana si è battuta per amare in questo altro modo. A lei è costato la vita, ma credo che quel modo diverso di amare sia anche permetta a noi di liberarci e di unirci e di metterci in comunicazione anche con una gioia, con un piacere, con una solidarietà più forte. Ecco, se possibile, quello che ho ricevuto da lei è proprio questo, la voglia, la spinta di stare insieme, pur con le dovute differenze, con alcuni disaccordi, no? Questo è un amore che è un entusiasmo, che ci permette di crescere. Oggi non direi che sono contro l'amore. Dobbiamo chiudere, voglio farti un'ultima domanda leggendo il finale del libro, a cui si arriva con un peso sul cuore fortissimo, ma dall'altra parte anche con questa forza, la forza della tua scrittura. Nuotare era ciò che facevamo insieme. Andavamo per il mondo, ognuna per conto suo, ma tornavamo in piscina per essere sorelle. Quello era lo spazio della nostra più intima sorellanza, e lo è ancora. Quasi un anno fa ho dovuto sospendere le mie visite in piscina per un infortunio alla spalla destra, la cuffia dei rotatori, una tendinite. Invece di nuotare, ho cominciato a scrivere questo libro. Se la ferita si rimargina, nuoterò di nuovo. Voglio rincontrarla nell'acqua, voglio nuotare come ho sempre fatto al fianco di mia sorella. Ecco, la domanda che volevo farti riguarda la scrittura. Se la scrittura ha guarito qualcosa, e se cosa hai scritto dopo questo libro, cosa stai scrivendo, se qualcosa è cambiato definitivamente della tua scrittura, e poi ovviamente se sei tornata a nuotare. Uno va alla scrittura para pedirle lo imposible a la escritura, si no, no tendría mucho caso ponerse a escribir. Y en esa escritura está la posibilidad de reactivar una memoria colectiva y de hacer lo que los que saben de estas cosas, de las leyes y de la justicia, llaman una justicia que involucra la verdad y la retribución. Yo de verdad creo que cuando todos nosotros nos ponemos a pensar en las que hemos perdido, en las personas y nuestros seres amados que nos ha arrebatado la violencia o que ha tocado la violencia, estamos participando de una justicia mayor, de una justicia, si lo quieren, cósmica. No me parece algo menor, es algo que tenemos que guardar, es precioso, es algo que nos pertenece y que no nos pueden arrebatar. El libro ha ayudado a transformar un duelo privado, avergonzado, lleno de culpa, silenciado a fuerza, que tanto yo como mis padres experimentamos por tantos años, y lo ha transformado en esto. Yo tampoco estaba sola. No, yo los tenía también, a todos ustedes y ahora mis padres, cuando vamos al panteón, cuando vamos a limpiar la tumba de Liliana, sabemos que estamos protegidos también por ese abrazo. Y esa es una transformación enorme. Y sin embargo, yo todavía espero la justicia y todavía le reclamo al Estado mexicano lo que nos debe a tantas en la labor por la justicia. Y todavía digo justicia para Liliana y justicia para todas, justicia para Julia, justicia para todas. Sí. Scusate. Credo che ci si avvicini alla scrittura per chiedere alla scrittura l'impossibile, altrimenti non avrebbe senso. E credo che una forma di giustizia sia la possibilità di riattivare una memoria collettiva e di fare una forma di giustizia che ci porti anche verità e restituzione. Quando tutti insieme pensiamo alle persone che abbiamo perduto e che abbiamo perduto in seguito a una violenza, si attiva una giustizia più grande, una giustizia che definirei cosmica. E non è una cosa piccola, è una cosa enorme, preziosa, nostra, e nessuno ce la potrà mai portare via. Questo libro ha trasformato un lutto privato, un lutto fatto di senso di colpa, di vergogna, di silenzio forzoso, in tutto questo, ed è stato possibile per me e per i miei genitori. Ho scoperto che non ero sola, che non eravamo soli, e adesso quando andiamo a trovare Liliana sulla sua tomba siamo protetti da questo grande abbraccio. Ovviamente questa è una trasformazione enorme, ma c'è ancora molto da fare. Io ancora aspetto giustizia. Giustizia per Liliana, giustizia per Giulia, giustizia per tutte. Y tengo que confesar que no he vuelto a nadar, pero se arregló el hombro, está bien, está bien. No he vuelto a nadar con la dedicación que tenía antes, pero después de estos días italianos, con toda la comida que he ingerido, y el vino, y los postres, creo que voy a regresar directamente a nadar. Muchas gracias. Non ho più ripreso a nuotare con tanta disciplina, e il problema che avevo alla spalla si è risolto, però credo che dopo queste giornate in Italia, con tutto questo cibo fantastico, vino, dolce, eccetera, dovrò ricominciare anche più di prima. Grazie. Grazie a tutte e a tutti, grazie a Cristina Rivera Garza. Grazie Giulia Zavagna. Grazie Cuba. Grazie a tutte, grazie Giulia Caminito, grazie Giulia Zavagna e grazie a Cristina Rivera Garza. È stata un momento molto potente e molto generoso. Ora ci sarà un piccolo tempo per chi vuole chiedere a Cristina di firmare la propria copia. Nel frattempo passiamo, diciamo, alla seconda parte di questa serata, che abbiamo pensato come una passeggiata, diciamo, per non lasciarsi alle spalle tutto il carico che ci è appena arrivato, che è una cosa da trasformare, e quindi vorremmo ora partire in passeggiata, e per aprire questa passeggiata vorremmo leggervi un documento che abbiamo scritto insieme. Col bicchiere di vino. La firma la facciamo lì? Siamo sopraffatte da un flusso inarrestabile di massacri, femminicidi, aggressioni che si susseguono e incalzano. Stufe dalla sensazione che tutto sia emergenza, che tutto sia normale. Ci sentiamo unite a chi oggi collettivamente e individualmente prende posizione e si oppone allo status quo nei luoghi di lavoro, di formazioni, di cultura, sulla stampa, nei media e per le strade. Proviamo un senso di vertigine di fronte a milioni di persone che prendono parola ogni giorno senza che nulla si sposti, come se le nostre voci discordanti non contassero. Ci chiediamo come moltiplicare, amplificare le voci di dissenso, alzare il volume, come darci coraggio e far sì che le donne possano agire una parola pubblica senza paura della violenza che tornerà loro contro per aver sfidato il patriarcato in tutte le sue forme. Interveniamo in un dibattito nel quale la complessità diventa la giustificazione per non prendere una parola schierata. Tuba rifiuta la neutralità. Ribadiamo un principio di esistenza dando spazio a voci chiaramente posizionate, senza temere di abitare una postura conflittuale. Come femministe ci diciamo antimilitariste, ed è da qui che nominiamo le cose. In Palestina è in corso un genocidio attuato da uno stato colonialista armato e sostenuto anche dall'Italia. Le politiche coloniali si nutrono di disuguaglianze giustificate da odio, razzismo e violenza. Questa violenza non è lontana, si esprime anche davanti alle nostre vetrine, prende la forma dell'islamofobia, dell'antisemitismo, alimenta la paura in uno spazio pubblico già saturo di sessismo, cultura dello stupro, repressione. Per questa ragione invochiamo e pratichiamo la moltiplicazione degli spazi pubblici, femministi e transfemministi, laboratori dove compiere esperimenti immaginativi, spazi che costruiamo insieme per produrre pratiche e saperi, spazi determinati da corpi di donne, lesbiche, persone LGBTQIA+, persone razzializzate, persone disabili, persone povere, persone senza documenti. Esistiamo, vogliamo essere ribelli insieme, ormai per sempre furiose. Grazie.